La via dei canti. La nave di Gabriel sorvolava l'Australia avvolta da una notte stellata. Eyal, Rockel osservavano rapite linee luminose che emergendo dal suolo. Attraversavano tutto il territorio dell'Australia da cui proveniva il suono del didgeridoo che ipnotico arrivava fino a loro, invece Gabriel era seduto in disparte, con i suoi pensieri altrove. Alice era seduta alla formata del bus, un cane attraversò la strada dirigendosi verso di lei scodinzolando, appoggiò il muso sul legame di Alice che lo accarezzò, il cane alzò lo sguardo verso di lei. Alice riconobbe Gabriel dal colore degli occhi. Manakel si piegò verso Gabriel con il suo viso davanti a quello di mio fratello. «Stanno cantando», disse indicando lo schermo. Gabriel trasalì, Manakel si scostò da lui. «Andiamo da loro», disse Gabriel. Gabriel, Manakel, Eyal, Rockel, Ayael scesero non lontano da Alice Springs e si inoltrarono nel bush, guidati dal canto. Eyal ammirava la natura di quella zona, rapito dal suono del didgeridoo. «Ogni volta mi emoziona», disse Ayael che annuì. Seguirono le linee luminose che, sinuose e lente, si muovevano raso terra, sollevavano la sabbia creando intorno a loro un'atmosfera sospesa, onirica. Trovarono un gruppo di 7 aranda, i nativi australiani, seduti intorno ad un falò, uno cantava, uno suonava il didgeridoo, 3 battevano ritmicamente le mani e legni, uno disegnava con le dita, linee e punti sulla sabbia, uno soffiava verso il fuoco lanciando scintille in aria. «Stelle volanti», mormorò Manakel guardando le scintille muoversi nel buio. Gabriel, Manakel, Eyal, Rockel, Ayael si sedettero davanti al fuoco. Tra i nativi che continuarono il loro canto. André passeggiava da solo nella campagna del Normandia Maine. Ormai erano passate diverse settimane da quando lui, Marcel, Alan e Rara avevano lasciato Parigi. «Domani mattina partirete», questo gli aveva ordinato Gabriel, senza preavviso, senza dirgli verso dove, «segui i tuoi sogni», come hai sempre fatto era stata la sua unica indicazione. Partirono con il camper di Gerard, Franoise lo aveva cacciato da casa nel cuore della notte al culmine dell'ennesima litigata. Alan aveva venduto tutte le sue macchine e abbandonato l'impegno con Police Nazionale, Marcel per la prima volta era stato lui ad abbandonare il suo ultimo fidanzato, si era convinto che avrebbe trovato l'amore della sua vita a nord, Alan lo canzonava continuamente, «a nord di che?» gli chiedeva. Erano così liberi, leggeri, girovagavano come artisti di strada, improvvisando sul suono dei tamburi, canti e danze che raccontavano del popolo delle stelle. Andrea aveva definitivamente preso l'abitudine di esibirsi con il viso decorato da linee e colori, ricavandone un aspetto misterioso ma mai respingente, sempre intrigante, che attirava la curiosità. Andrea si sedette sulla riva di un torrente, davanti ad una cascata, prese taccuino e penna che portava sempre con sé, staccò un foglio e iniziò a scrivere. «Quest'anno la primavera è davvero bella, sembra tutto perfetto, non fa il caldo degli ultimi anni, non si è ripetuta la siccità, sembra tutto bellissimo. Ma il mondo sta andando a pezzi, nei casi migliori la Terra è vissuta come un Luna Park, il più delle volte come una discarica. E tutto sporco, inquinato, abbandonato. E poi ancora guerre, povertà ovunque sembra non ci sia più un posto dove poter vivere in pace In tutto questo ci siamo noi quattro che sembriamo immuni da qualsiasi difficoltà, a volte credo di camminare a 10 cm da terra, isolato da una campana di fortuna immensa. Anche Alan è tranquillo, quasi zen, non sembra più neppure lui, sempre così calmo e ben disposto, è cambiato completamente. André smise di scrivere per soffermarsi a guardare l'acqua della cascata. Con quella breve lettera fece una barchetta e la lasciò navigare sul torrente. La seguì con lo sguardo finché la carta non si consumò fino a sparire nell'acqua. Gabriel con lo sguardo sul falò davanti a lui seguì la breve navigazione della barchetta di André. Gabriel chiuse gli occhi. Per raccogliere i suoi pensieri. Poi rivolse il suo sguardo a Manakel, Eyal, Rockel, Ayael, infine verso il suonatore del didgeridoo che immediatamente produsse un suono con un'unica nota, lunghissima. Gli altri interruppero il canto e il ritmo delle mani e dei legni. Quello che disegnava sulla sabbia raccolse il bastone che aveva accanto a sé, si alzò in piedi. E batté il bastone a terra come per puntellarlo al suolo. L'altro soffiò verso il fuoco proiettando le scintille verticalmente verso il cielo. Il suonatore del didgeridoo posò lo strumento a terra e si voltò verso Gabriel. Anche Manakel, Eyal, Rockel, Ayael vi voltarono verso di lui colpiti da un misto di trepidazione ed entusiasmo. Alice era a pochi chilometri da dove si trovava André. Avvolta nel suo mantello rosso se ne stava appoggiata al parapetto di un ponte in pietra. Affacciata verso il torrente osservava i riflessi dell'acqua. Sotto il mantello rosso nascondeva la sua spada d'oro.